24334, adesso ti squilla notte e giorno, guarda per me, coglione, attaccato tutta la notte, perché da stanotte ti piomo di telefonata come ho fatto a quell'altro, capito, stronzo, ti piace rompere coglione a baracchino? Da stanotte ti piombo di telefonate nel sveglio, quella che va a pagarsi la mattua, capito? Coglione! Capito? Io mi divento a fargli squillare il telefono. Io che rompo le scatole. Però non ci ho provato a chiedere i soldi. Lo dovrà buttare il telefono. Peggio per lui, lo dovrà buttare il telefono, perché il numero intanto lo sanno tutti. Capa. Piombo di telefonate 24334. Ora vi, domani se trovi quella persona là, capisci a me, non faccio nome, dagli questo numero e digli di piombargli di telefonate. All'ottanta, questo piombo di telefonata trovato, aspetta, brutto coglione, trovate, non preoccupare, adesso rivediti, vaffanculo, vaffanculo, se domani piombo di telefonata a tua madre, altro che suo cazzo, io sugo il cazzo a tua madre, hai capito, brutto coglione, accolino quello abitante. Questo è il numero tuo. Adesso è staccato. Domani ti